Replay. Per la serie Replay riproponiamo questa sera il terzo di quattro incontri ideati e moderati dal critico, conduttore televisivo e giornalista Philippe Daverio sul tema della creatività. Un ciclo di incontri realizzati con la collaborazione del Sole 24 Ore, che Radio 24 ritrasmetterà in sintesi nei giorni seguenti al loro svolgimento. Questa sera il tema è il committente piccolo principe, cioè quanto il committente, con le sue disponibilità economiche, ma anche con la propria visione del mondo, è partecipe del processo creativo. Ascoltiamo dalla voce del curatore e moderatore del ciclo di incontri, Philippe Daverio, la presentazione del tema della serata. Il principe è l'essere fondamentale nell'ambito della creatività, è l'altra parte della creatività. Nel campo dell'architettura, in modo particolare, la committenza è la madre o la padre dell'architettura. L'architetto è il padre o la madre dell'architettura. Potete spostare fra mamma e papà, ma sostanzialmente se non funziona la coppia non nasce la grande architettura. Questo è uno dei temi molto forti di oggi, perché spesso abbiamo l'impressione che ci sia un crollo reale nella committenza pubblica e abbiamo l'impressione che ci sia un crollo reale nell'architettura. I dibattiti che seguiamo regolarmente sono dei dibattiti nei quali si dà la sensazione che l'architettura sia in un momento di fisica complessità, o anzi di ansia in Italia. Da anni io spingo in modo che si faccia nelle facoltà di architettura, invece che di alcuni master inutili, un master per pubblici dipendenti, per assessori, per presidenti di regione, che abbia come scopo di trasformare un pubblico impiegato, un pubblico dipendente, un pubblico dirigente in un principe. Cioè, io ho sempre pensato che la funzione del committente fosse una funzione fortemente incisiva nella realizzazione dei progetti e nella spinta per la creatività. Se questo è il profilo del committente ideale, quali sono i committenti con cui gli artisti di oggi si devono misurare? La parola all'architetto Massimiliano Fuxas. Gli altri ospiti della serata, intervistati da Philippe Daverio, sono il frate domenicano Paolo Garutti, professore di Nuovo Testamento in Vaticano e a Gerusalemme, e il manager Santo Versace, che racconta la vita da mecenate del fratello minore Gianni. Il progetto in Italia che mi ha dato maggiori soddisfazioni è stata la Fiera di Milano, dove avevo un'ottima committenza. La committenza era fatta alla fine da due signori che si chiamano Artusi e Roth, i quali avevano a cuore la qualità, ma dietro a loro c'era un altro gruppo molto forte di gente che non voleva assolutamente fare una cosa banale, se no non si sarebbe mai fatta. C'è stato un giorno, subito dopo che avevamo vinto il concorso, c'è stato un giorno che io ho detto: questo asse è troppo stretto, io l'ho ridotto dai 17 metri ai 14 solo perché dovevamo rientrare nei costi, e gli feci vedere i due modelli giustapposti. E lui mi chiese quanto costava in più, e io gli dissi quanto costava. E lui disse: lo facciamo. E tutti quelli del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente della Regione fino all'ultimo dei membri del Consiglio, accettarono un'idea che funzionava meglio di un'altra, cioè un fatto straordinario, unico. A un altro esempio, Francoforte. Francoforte, chi era il mio committente? Ecco, il committente di questo progetto si chiama Tom Meyer ed è un olandese appassionato di architettura. Questo signore, che era un amante dell'architettura, forse l'ultimo di quelli che possiamo chiamare principi, a un certo punto vende una grande parte delle sue azioni, che si chiama la società MAB, le vende a Baufund. Cioè, io allora passo, io e il mio progetto veniamo trasferiti a un tale Baufund. Baufund poi vende nel tempo ad ABN AMRO, allora troviamo altri manager che arrivano, che si cambiano, così, perciò si perde completamente il cliente. A un certo punto ABN AMRO fu venduta a Royal Bank of Scotland, qualche cosa del genere, e al Banco di Santander. Questi due signori decisero di spezzettare questa grande proprietà. Allora io non feci neanche tempo a diventare scozzese, che divenni immediatamente un'altra volta olandese, perché passò tutto alla Rodamco. La Rodamco mise tutto questo in un derivato, cioè il mio cliente, il mio principe è un derivato. Prendiamo un caso invece completamente differente e italiano. Il mio committente era Rutelli, perché era il sindaco di Roma, il quale però aveva l'EUR come società in parte del comune, e io diventai l'EUR, ad esempio, appartengo all'EUR. L'EUR poi ha cambiato un paio di presidenti, e io adesso appartengo agli ultimi presidenti amministratori delegati. Adesso il cantiere è iniziato, il cantiere è straordinario, funziona benissimo e per fortuna la società che lo sta costruendo, che si chiama Condotte, è stata salvata, e hanno detto che non è vero che è una società mafiosa, perché nel frattempo il buon Di Pietro aveva detto, quando era ministro, dice questa società è mafiosa perché le fa due parti del tronco di Salerno Reggio Calabria, lì chiunque, se ci andiamo noi andiamo a mangiare in una trattoria siamo mafiosi. Allora loro perché compravano sicuramente, ci credo, il cemento armato da qualche impresa che aveva l'antimafia, ovviamente erano mafiosi. Oggi per fortuna il TAR ha salvato la mia nuvola, io ringrazio il TAR, non lo conosco, altro principe sconosciuto. Santo, questo racconto molto preciso perché mi apre anche una prospettiva inquietante, perché io ero convinto che il principe fosse scomparso nell'ambito pubblico, cioè che trovare un assessore principe era un po' complicato, bisognava prima fare un corso di formazione, ma continuavo a immaginarmi che almeno nel mondo privato ci fosse ancora una sorta di volontà principesca. Adesso Fuxas mi dice che anche il mondo privato si è sciolto, cosa ne pensi? Tu, un manager, cosa ne pensa? Guarda, lui il primo esempio che ha fatto è la Fiera di Milano, dove addirittura ha trovato un terreno fertile e quando ha fatto vedere le differenze tutti hanno detto spendiamo di più perché vogliamo una cosa che segni e che resti, e chiunque va alla Fiera di Milano deve apprezzare che i loro principi sono stati straordinari, che hanno detto facciamo quello che ti senti di fare, tu ci dimostri che è più bello e lo facciamo, quindi lì c'è l'istituzione, ha funzionato bene, ovviamente che c'è stata stabilità. Lui ha parlato poi di altre istituzioni in cui c'è variabilità, ma nel privato Gianni ha lavorato con dei principi e poi è diventato imperatore lui, certo, nel senso che ha dato committenza. Perché Gianni cominciò a essere chiamato da industriali privati a fare delle cose bellissime, creatività applicata, perché la nostra è creatività applicata, è arte applicata. Poi diventò principe lui stesso e poi addirittura imperatore, nel senso che principe e re della moda ce n'è tanti, ma imperatore, se vai a guardare gli ultimi 50 anni, ce n'è uno solo. Però c'è una cosa che mi devi chiarire. Sì. Sembrerebbe che basti essere onnipotenti per diventare principi. Ma di signori molto potenti in Italia ne conosciamo tantissimi, cioè che sono legati alle aziende di Stato, alle imprese private. La maggioranza... Per diventare un onnipotente anche creativo, cosa bisogna fare? Bene. Gli onnipotenti, la maggioranza, non sono principi e non lo saranno mai, perché in molti casi, siccome in Italia è stata abolita la meritocrazia, in molti casi noi abbiamo gente che viene scelta in quanto leale, fedele e amica. Quindi per essere principi, quando hai raggiunto dei risultati straordinari e i mezzi per farlo, ci vuole parte dalla creatività e dal talento, cioè gente che è nata, si è fondata sulla creatività e sul talento, quindi quando raggiunge certi livelli e certi risultati ha il senso di essere un mecenate, ha il gusto del bello, ha il piacere di far costruire delle cose, ha il piacere di investire, perché due talenti a confronto, con la libertà assoluta di fare, con la sfida di migliorarsi sempre, con la sfida di fare qualcosa di unico ed eccezionale, è incredibile. Caro Paolo, questa è un'introduzione al tuo discorso, perché abbiamo definito il principe onnipotente e tendente all'eternità. Sembra di parlare del tuo committente. Sì, e qua ho giocato a fare l'architetto, perché ci sono alcuni capitoli, e sono tanti, nel libro dell'Esodo, dove, come era un costume delle divinità nell'antichità, dà le istruzioni per il Tempio, dettagliatissime. La tale tenda la voglio di bisso, color rosso, quell'altro, il ricamino me lo fate d'oro. E di fatto si è sempre supposto che il luogo in cui si entra in contatto con Dio in qualche misura debba avere due caratteristiche. La prima è essere non quotidiano. La seconda caratteristica che differenzia la Chiesa da un campo di calcio è l'essere voluta da Dio e richiesta in una certa forma. Questa coscienza, bene o male, è presente in quasi tutte le grandi religioni ed è anche presente nel cattolicesimo. In altri termini, il vero committente è qualcuno che ti chiede un luogo dove incontrarlo secondo determinate caratteristiche, e da quelle caratteristiche non puoi muoverti più di tanto. Il problema col Dio dei cristiani è che a un certo punto è venuto suo figlio, che ha detto che tutto sommato il Tempio, beh sì, era una bella cosa, però non ne sarebbe rimasta pietra su pietra, che comunque lui non era molto interessato ai templi, preferiva una cena fra amici, e allora lì è nata la Domus Ecclesiae, un'altra forma completamente diversa, la casa. Ma spesso succede che i figli cambiano i parametri architettonici del padre. Sì, si può succedere, ancora. Ma che poi invece sono rimasti, perché sono rimasti estremamente vivi. Allora, noi ci troviamo oggi, parlo da prete cattolico, a un incrocio di diverse piste nel cercare di esprimere il sacro cristiano. C'è la presenza del Tempio nelle nostre costruzioni, c'è la presenza della mensa, quindi della sala da pranzo, e poi quando i cristiani poterono finalmente esprimersi andarono a inventare questa forma, a prendere dai romani questa forma che è la basilica, che era un mercato, un tribunale, era il luogo più laico che esistesse, proprio per segnare il fatto che loro non ritenevano di dover avere necessariamente un Tempio. Ecco, dopo 20 secoli queste forme si sono fra loro sovrapposte. In più si è aggiunta la forma del teatro, perché l'ecclesia greca, l'assemblea delle città greche, da cui la chiesa ha preso il suo nome, si trovava in una zona circolare che era teatro. Quindi abbiamo un committente strano, perché è un committente che dà parecchi input non fra loro necessariamente omogenei. Questo è uno dei poli in cui la committenza umana, la committenza ecclesiastica, si trova a vivere. A seconda delle varie epoche accentua questo o quell'elemento. L'altro polo è la gente, perché gli esifici religiosi hanno questa grossa caratteristica: non esistono senza la gente che li abita. Io ho un mio amico che è ben educato, è assolutamente anche letterato, fa il filosofo di professione ed è sicuramente di un'onestà trasparente, è magrissimo, vi parlo di Massimo Cacciari. Eppure Massimo Cacciari, eletto a fare il sindaco di Venezia, ha rinunciato ad essere principe. Quando si è posto il problema del destino da dare alla punta della dogana, Massimo Cacciari, da perfetto filosofo del dubbio, ha detto: mi non ho idea, femmo una commissione. Ha fatto una commissione di impiegati comunali, i quali hanno deciso il destino della città. Io, quando l'ho sentito, ho suggerito che per le prossime elezioni eleggano direttamente come sindaco la commissione di impiegati comunali. Gli ho dato la carica. Di Bilbao si parla per il museo del Guggenheim, di Dubai si è cominciato a parlare dopo la vela. Tu mi hai rafforzato quello che ho detto io, perché lui ha preso dei dipendenti pubblici scelti in molti casi in maniera clientelare e non per le loro capacità, gli ha dato praticamente, ha fatto una commissione di incompetenti. Quindi chiaramente il risultato è molto chiaro, perché il talento, io do per scontato che tu non solo la competenza, ma la meritocrazia ti fa emergere i talenti e i creativi, perché dà libertà e dà libero sfogo al talento. Ha detto una cosa bella, che il committente anche lui è un creativo. No, il committente è sempre un creativo, perché è qualcuno che ha voglia o un'aspirazione, io vorrei parlare di Venezia. In quella commissione c'era anche Achille Bonitoliva, che non è qui e non bisognerebbe parlarne. Però nella politica del dubbio, il nostro amico Achille che cosa disse fra il Guggenheim e Pinot? Disse: pari merito, se la vede il sindaco e se la vedono loro. Ma la cosa era ancora più grave, perché? Perché noi non siamo in grado, noi, io non sono nazionalista, però il pubblico ha un ruolo importantissimo. Se il pubblico in questo caso, come il caso italiano, è completamente estraneo a quello che succede, perché che cosa ha fatto? Ha scelto semplicemente fra il signor Pinot, che non è uno stinco di santi ovviamente, e il Guggenheim, che non è un'altra cosa simile, e basta. Cioè non ha avuto quello che dici te, Filippo, una visione del futuro. È tutto per questo replay dedicato al terzo di quattro incontri ideati e moderati dal critico, conduttore televisivo e giornalista Filippo Daverio sul tema della creatività. Un ciclo di incontri realizzati con la collaborazione del Sole 24 Ore e che Radio 24 vi ripropone a poche ore dal loro svolgimento. Il prossimo appuntamento è fissato a Roma per martedì 24 giugno. Radio 24 ne trasmetterà una selezione la sera dopo, mercoledì 25 giugno alle 22:15. Buona serata.